Buonasera e grazie che avete invitato anche me a parlare della mia esperienza, che in realtà è l'esperienza di mia nonna. Sì, avrebbe dovuto venire lei, però mia nonna è molto anziana e poi, come si dice, è una donna di poche parole. Sì, non parla molto, però canta. Cosa canta? Ma canta una vecchia melodia, sempre la stessa. Quando ero piccola le chiedevo: nonna, ma dove l'hai imparata? E lei mi diceva che era una melodia che cantavano le sue bisnonne, però che le parole le aveva inventate lei. E quando provavo a chiedere: nonna, ma perché hai dovuto inventare le parole? Allora lei cambiava subito e si metteva a fare altre cose, lavare patate, stendere panni, per non rispondermi. Come fa? No, ma io non canto bene come mia nonna, non mi fate cantare. Va bene, fa così più o meno, ci provo. Non andare via, non andare via, resta qui con me, perché sono piccola e ho paura. Non andare via, resta qui con me, perché sono piccola e ho paura. Le parole le ha inventate mia nonna, appunto, però la melodia è antica. Solo quando ero più o meno sedicenne, mia nonna mi prese per mano una domenica, mi portò sul divano e mi iniziò a raccontare il perché aveva dovuto inventare le parole. E mi raccontò che era un'estate, l'alba, tra le 4 e le 5 del mattino, e lei dormiva tranquilla nella sua stanzetta con i suoi fratelli e le sue sorelle. Dormiva, aveva 9 anni, ma a un certo punto vennero svegliati da dei rumori. Passi, urli. Erano dei soldati che stavano separando gli uomini dalle donne, le madri dai bambini e infine gli anziani. Mia nonna aveva solo 9 anni e nella confusione perse la mano di sua madre e si ritrovò su un treno. No, non quei treni che conosciamo adesso noi, con il finestrino, la tendina, il posto per la bibita e l'attacco per il portatile. Era uno di quei treni merci, sporchi, bui, senza finestrini. E mia nonna era lì sola. Sì, c'era tanta gente, ma lei non li conosceva. E allora si rannicchiò in un angolino di quel vagone buio e cominciò a cantare. E inventò le parole, che naturalmente rispecchiavano il suo stato d'animo di quel momento. La solitudine, lo sconforto, la paura. Cantava per non dimenticare, per farsi coraggio. Mia nonna si chiama Sara, come me, però lei con l'H finale. Io non ce l'ho l'H finale. Come? No. Mia nonna non è ebrea. Mia nonna è una donna rom. Oltre ad ebrei, intellettuali, omosessuali, artisti, anarchici, deformi e dementi, vennero uccisi milioni e milioni di uomini, bambini e donne rom. Ma di loro nessuno parla mai. Porraimos. Questa è la parola che hanno scelto i rom per definire quella triste pagina della storia. Un po' come la parola Shoah per gli ebrei. Abbiamo chiesto qualche volta a mia nonna come avesse fatto a sopravvivere a tutto quell'orrore, ma ogni volta che abbiamo provato a chiedere lei cominciava a piangere e diceva no. Abbiamo smesso di chiederglielo. L'importante è che lei sia sopravvissuta. Ha lavorato, si è sposata, ha cresciuto figli e nipoti. Certo, deve essere terribile perdere tutto, un'intera famiglia così in un momento, perdere la lingua, persino le parole, e non trovarle più. Per favore, se qualcuno di voi conosce le parole di questa antica melodia gitana, venite a dirmele, così io potrò cantarle ancora a mia nonna. E magari lei tornerà a sorridere e si ricorderà di quando aveva 9 anni e ancora non conosceva quell'orrore e la paura. Ieri mi sono sposata. Come con chi? Con un uomo. Con chi vi sposate voi? Com'è matrimonio rom? È bello. E musica, fuochi, colori, bambini che corrono da una parte all'altra. Come ero vestita? Colorata. Però avevo tanti bracciali che facevano un bello suono quando ballavo. Ho ballato tutta la notte. No, mio marito non balla, però mi guarda, e se mi guarda geloso. Sì, ci sono tanti modi di fare matrimonio. Sì, noi fatto un poco di convivenza, come fate anche voi, no? 3 anni, sì. Poi ieri fatto festa di matrimonio. Ah, bello, abbiamo cucinato tante cose buone. Abbiamo fatto sarmali. Cosa sono sarmali? Sarmali sono, come dite voi, involtini, sì, di carne e di verza. Si prende una grande foglia di verza, si mette dentro carne con odori, sapori, poi chiudi, cuoci su fuoco, buonissimi. E poi abbiamo mangiato i mici. No, no gatti. Tutti pensano che noi mangiamo gatti. No, mici sono salsicce, la prima scelta, migliore qualità. E poi vino, vodka, birra. E c'erano anche dolci, sì, abbiamo fatto dolce e cioccolato, che è come il vostro pandoro, ma c'è cioccolato, buonissimo, mio preferito. Io felice, mia vita bella, ora anche sposata, e che ce l'ho anche una bella casa, forse per voi è baracca, ma per me è casa, che ce l'ho un bello salone con acqua, doccia, e c'è pure internet, che mio marito tutte le notti lì a vedere che io mi arrabbio. C'ho anche 3 figli, figli di mio marito. Poi lui con altra moglie ha fatto, come dite voi? Ah, sì, divorce. Sì, questo è uno modo. Lui mi ha visto che prendevo acqua a fontana e ha detto, mi piace. E io ho visto lui e ho detto, mi piace. E allora convivenza e poi matrimonio. È l'amore. Mia nonna mi diceva sempre che amore è come sale alla minestra. Sì, come sale nella minestra. Non si vede, però si sente se c'è o se manca. Altri modi di fare matrimonio? Sì, noi abbiamo contratto. No, no, niente di scritto, che non ci piace burocrazia. Contratto è che la famiglia di sposo, lo sposo, dà soldi alla famiglia della sposa. No, non è che la compra, è che è giusto, perché perdere figlia che aiuta in casa è grossa perdita per famiglia, per comunità, quindi credo giusto che lui dia soldi, poi lei lavora per marito e ricompensa. Forse questo meno giusto, ma Non è mio caso, io felice. E poi c'è altro modo di fare matrimonio che fate anche voi in Puglia, in Sicilia, ma anche Nord Italia. Sì, sì, sì. Come dite voi, fuitina, eh? Fuitina. Sì, è che lo sposo e la ragazza scappano da amici, da parenti che abitano in un'altra città e fatto un matrimonio con o senza gioia di famiglie. Mia vita è bella, come dice assistente sociale, io integrata, che c'ho anche un bello lavoro, sì, vendo panini e bibite a concerti rock e mando i miei figli a scuola. Certo, vanno tutti a scuola e sono bravissimi in matematica, scienze, anche in inglese, più bravi della classe. Che vengono qui le mamme con i loro figli a fare i compiti con i miei, qui nel campo, io gli offro caffè e dolci e parliamo. Che non so come pensate che... perché pensate che società maschilista? Non è così, è che ci sono ruoli. Uomini fanno una cosa, donne fanno altra. Però noi, molto di rispetto ad anziani. Quando parlano anziani, è legge. Sì, certo, io felice. Ma non siamo tutti belli, tutti buoni, tutti integrati. Anche qui nel mio campo c'è una donna che io mi arrabbio con lei. Che lei ha 3 figlie femmine. Dico, scusa, pulmino viene a prendere i figli miei, prende anche le tue. Li porta a scuola. E lei mi risponde, sono femmine, cosa devono fare a scuola? Basta che si sposano, lavano e cucinano per i loro mariti quando sono grandi. E io mi arrabbio, ma c'è anche questo. Ma non vi ho offerto niente. No, no, no, no, no, niente di complimenti. Mia madre mi dice sempre, chi non accetta non merita. Vado a farvi caffè, come faccio io, è buono, come quello di bar. Dov'è la fortuna, eh? Dove? Tutta la vita che cammino. Tutta vita che cammino. Eh? Tutta vita che tento di aprire porte e non si apre mai niente, mai. Sono venuta qui di Romania. E non sono romena, sono rom. Perché in Romania costano 10.000 euro case, io non posso comprare. Allora penso, vado in Italia, lavoro. Ma tutti mi dicono, tu zingara, tu sporca, tu ruba, tu no bene, tu via. Anche solo cammino per strada, gente mi guarda male. E baristi, baristi chiudono porta in faccia a me, che non vogliono che entro a bar. Ma chi voglia di andare a bar? Chi vuole andare a bar? Oggi sono triste, che mi sono venute in mestro, che non c'ho soldi, che compro assorbenti. E mio figlio c'ha già 3 anni e non posso mandare lui alla scuola. E ogni volta che trovo un posto che credo buono, che credo sia a casa, poi arriva polizia e fa sgombro, violenza, brucia tutto, butta giù tutto. E allora prendi i bambini e scappa e corri, corri, senza mai arrivare. Tutta mia vita è che cammino. Sono stanca. Tutta vita che cammino. E quando non cammino, sto in ginocchio, sì, a fare elemosine, sì, in ginocchio davanti a vostri mercati, metropolitane, vostre chiese. Questo è vero. In ginocchio, a lavare pavimenti se qualche buona donna mi dà un poco lavoro. In ginocchio, davanti a mio marito. Che schifo. Porco, tutta vita che cammino, tutta vita che scappo, sono stanca di scappare, di obbedire, stanca, continuo ad andare avanti, perché mia nonna mi diceva sempre, guarda avanti, non indietro. E io continuo ad andare avanti e prego, prego, sì, prego San Vasilif e Santo Goran, San Giorgio, prego e cammino e vado avanti, ma verso dove? Verso cosa? Persa, credo di essermi persa. Yoi mamo, yoi mamo, bokali som. Yoi mamo, yoi mamo, bokali som. Yoi mamo, yoi mamo, boccali som. Yoi mamo, yoi mamo, boccali som. Demo mamo corona, si ne mangia marina. Yoi mamo, boccali som. Yoi mamo, yoi mamo, boccali som. Demo mamo corona, si ne mangia marina. Yoi mamo, boccali som. Sì, de, mo lo faccio. De, che vuol di? Vuol di mamma nella lingua mia. Che lei vorrebbe che chiamassi sempre de, ma io non mi viene. A volte ce la chiamo e falla contenta. A mia madre. Sì, no, c'ho un bel rapporto con lei. Certo, quando stavamo all'altro campo, stavamo de più insieme. Eh sì, quando stavamo all'altro campo a Testaccio stavamo sempre fuori la sera, facevamo il fuoco e ci mettevamo lì sedute, sdraiate, attorno al fuoco. Ci pettinavamo, facevamo le trecce e facevamo queste qua, vedi, le collane di pasta di vetro. Bella, ve? Un po' per noi e un po' per vendele. E ci raccontavamo le storie. Era bello star lì a sentire storie. C'era chi raccontava, chi mangiava, e chi cuciva. Mia nonna mi raccontava sempre una storia, che è un po' la storia delle origini di dove veniamo noi, da Croazia. Cioè, io in Croazia non ci sono mai stata, sarebbe stata qua a Roma a testaccio prima, e sì, però mio padre e mia nonna venivano da lì, dalla Croazia, e c'è sta storia, ma è una leggenda, non lo so se è vera, però vabbè, te la racconto perché mia nonna me la raccontava sempre. E fa così, dice che al tempo di Gesù, lì a Betlemme, a Nazareth, Gerusalemme, insomma là, c'è stava un antico popolo che erano i più bravi di tutti a lavorare ferro, a fare rame, ferro, facevano i chiodi, che poi anche adesso noi Rom siamo i migliori del mondo a lavorare ferro e rame, vabbè. Comunque questo popolo faceva sti chiodi belli resistenti, belli grossi, no? E che succede? Succede che i centurioni, i soldati romani, no? Volevano sti chiodi per fare la crocifizzazione di Gesù, e quel popolo si è rifiutato di tagliare sti chiodi. Oh, è da allora che stiamo a scappare. non so se questa non è vera, però è una cosa che mi raccontava sempre mia nonna. Poi mia nonna è morta. E allora mio padre ha cominciato a dire che era meglio se ci andavamo via, se andavamo a sto campo, questo dove stiamo adesso, no? Per convincerci cominciava a dire che c'era l'acqua buona, acqua potabile, e che c'era più spazio. Sì, sì, l'acqua buona c'è, c'ho pure una camera tutta per me. Però qua dove stiamo? Prima stavo a testaccio, stavo al centro. Io c'avevo pure gli amici, le amiche a Roma, sa? Eh sì, lei non lo sa. Che io ho fatto a scuola? Eh sì, ho fatto il diploma di terza media. Una zingara col diploma, sì. È stato difficile, però ce l'ho fatta. Beh, era bello andare a scuola. C'era una professoressa di italiano che era proprio brava, che io lo so che lo faceva per farmi sentire più parte della classe, però ci raccontava un sacco di cose sul popolo mio, sul popolo Rom. Per esempio mi diceva che la parola Rom deriva dall'antica lingua dell'India, il sanscrito, e che vuol dire uomo, persona, che era un modo per definirci, che siamo persone anche noi, no? Invece la parola zingaro deriva dal greco zikanoi, che significa coloro che camminano sotto le stelle. Bello, ve? Che poi come ha fatto a diventare una parolaccia, ma un'offesa, ma grave, ma pure fra di noi, se diciamo zingaro, figlio di zingaro, non è una cosa bella. Certo. Mo l'altra assistente sociale che è venuta l'altro giorno mi ha detto che potevo continuare a studiare. Magari potevo fare una scuola da regione, come cuoca o come parrucchiera. Mi piacerebbe, però. Però io sono sempre una donna rom. Sarò sempre una zingara per voi. Una zingara col diploma, ma sempre zingara. Che poi com'è che si dice? Che io sono apolide. Non ce l'ho i documenti. Cioè posso venire a scuola, ma fino a un certo punto è come se non esisto, come se non risulto, e invece sono convinta che risulto, e come. certo, poi io sono grandicella, sa? C'ho 17 anni, sì, lo so, per voi sono una pupetta, ma qua al campo la vita è diversa, ci si sposa presto. Mio padre dice proprio che è proprio ora che mi sposo, invece mia madre vorrebbe tenermi ancora con lei, che sono la più piccola. Matrimonio, mamma mia, che poi a me non mi piace nessuno. Vabbè, sì, mi piace un po' il figlio di Dragan, Martin. Però il matrimonio, ma però una cosa ce la so, io voglio avere tanti figli, ma tanti, almeno 5 o 6, sì sì, e a loro gli insegnerei tutto quello che ho imparato. E magari i figli miei non dovrebbero sentire parole come zingaro, sporco zingaro, zozzo zingaro. Vesele sus va che mai che glori, vesele sus. Stasera il cielo è limpido. Guarda, si vedono quasi tutte le stelle. Mia madre mi diceva sempre che noi siamo come le palline di pasta di vetro della collana. Che la vita è il filo di cotone che non si vede ma che tiene unite tutte quante le palline. E con ognuno di noi è una pallina di pasta di vetro, bellissima, colorata, unica. Che però è fragile da sola, invece poi unite dal filo, allora diventa una collana, un gioiello che splende al sole, che splende come stelle. Le persone sono come pianeti e non esiste un pianeta uguale a un altro, ognuno è unico, no? Ho capito che voglio fatta grande. Sì, sì. Che se è vero che la parola zingaro vuol dire coloro che camminano sotto le stelle, allora io voglio imparare a vedere, a conoscere tutti i nomi delle stelle. Le stelle. Da piccola le vedevo arrivare da lontano con il loro carico di acqua, le nuvole. Da piccola stavo sempre sdraiata nel mio campo e guardavo nuvole e fantasticavo con loro forme. E poi mi piaceva quando arrivava pioggia. Mi piaceva odore di terra che si mescolava con quello di acqua, di pioggia. Stavo sempre nel mio campo. Io lo chiamavo Kasvat, casa del vento, perché c'era tanto vento e io e gli altri bambini correvamo così, a braccia aperte, giù, e ci sembrava quasi di volare. Stavo sempre nel mio campo, con mio fratello, Igor, e gli altri bambini del campo. Ma il gioco più bello era la raccolta di legni. Chi raccoglie più legni vince, chi raccoglie più legni vincitore. Oh, oh, oh, oh. Così gridava mio fratello Igor, ma non si vinceva mai nulla, mai. Mi ricordo che una volta avevo visto un legno bello grande e lo volevo prendere io, e allora correvo forte e non ho visto, ho caduto e ho battuto la testa sopra un grande sasso e sanguinavo, piangevo, singhiozzavo. Allora Igor e gli altri bambini del campo mi hanno presa in braccio e mi hanno portato da mia nonna. Lei mi ha vista, mi ha messo una pezza bagnata sulla fronte e poi mi ha bagnato le labbra con i fiori di iperico. Allora mi sono calmata. Che cos'è l'iperico? È lo scacciadiavoli, così diceva mia nonna. Gioco bellissimo, raccolta dei legni, eh? Che erano stati bravi i grandi, i genitori. Ci facevano credere che era gioco, invece era lavoro. Che a tempi miei, se non c'era legno, freddo tutto campo. Che non usavamo bombole di gas come ora. Che forse poi anche meglio. Che adesso quanti si sente che muoiono bruciati vivi nel roulotte per colpa di gas? Eh? Sono rimasta in mio campo fino a che non ho sposato mio marito, Goran. Forte lui, bello. Io e Goran viaggiato perché avevamo giostre. Tutta famiglia di Goran giostre. E ho visto tanti belli posti. Marsiglie, Prato, Abruzzi, Puglie, Basilicate, Napoli. E poi arrivati qui a Roma. Ora io e Goran stanchi, vecchi. Ora nostri nipoti, i nostri figli vanno con giostre via. Certo cose diverse. Noi abbiamo fatto roulotte più grandi, più comode, anche giostre fatte nuove, ma gente meno contenta che arriva a giostra di zingari in città. Non so, anche e che hanno perso tutti un po' l'amore per la terra, per il fuoco, per le nuvole. Anche i miei stessi figli, perso tradizioni, che ora vogliono civilizzazione di europei. Forse cosa buona, forse no. Anche mie nipotine portano capelli corti e jeans. E io mi arrabbio, gli dico cose, ma sono vecchia, che non posso capire tutto. Io solo voglio restare qui, in questo campo di Acilia, che è piccolo, ma c'è tanto vento e mi ricorda di mio casvat. Era bello, sì. Io solo voglio restare qui in questo campo, ma adesso dicono che ci vogliono lavare via da qua, che devono fare parcheggio di centro di commercio o non so che cosa. Io solo voglio restare qui seduta e guardare tramonti e sentire tutto il vento in mia faccia e raccontare storie ai miei nipotini, che io non voglio che tutto viene dimenticato. C'è aria di pioggia, buono odore. Amo le nuvole, sono così libere loro. Vanno dove vogliono. Mi ricordano di mio casvat, di corse a braccia aperte di bambina, come ero piccola, libera, allegra. Malo, malo, male. Adumar, allo, lele, magalo. Adumar, lele, malo. Malo, malo, tú quieras. Adumar, alo, lele, magalo. Adumar, lele, malo. Questa è l'immagine che tutti hanno dei Rom. Donne vestite male, disperate, sporcizia, miseria. Ma l'80% dei Rom in Italia lavora, paga le tasse, vive nelle case e manda i figli a scuola. Quando sono stata nel campo tollerato, di via Ortolani ad Acilia Sud, un'anziana Rom mi ha insegnato un proverbio gitano, molto antico, che recita così: Kand zikania fi so sul timbro timp. Non so se l'ho detto bene, comunque significa: quando anche i gitani, i zingari, vanno via, arrivano brutti tempi per tutti. Beh, non aggiungo altro. Però ho letto da qualche parte un filosofo che diceva che la speranza è come un sentiero di campagna. Sì, come un sentiero di campagna. Non si vede, non c'è. C'è solo la campagna. Però poi basta che un uomo, una donna, cominci a farsi largo tra le erbacce, i ciottoli, i sassi, le spine, che ecco che appare un sentiero, una strada, che prima non c'era e adesso c'è. Quindi la speranza è qualcuno che fa una prima azione verso qualcosa. Sempre nel campo di Via Ortolani, il primo giorno che sono arrivata, una bambina di 3 anni mi fece una domanda: Volisma? È la prima frase che ho imparato. Sì, Volisma significa mi vuoi bene? Per rispondere di sì è facile. Dovrebbe essere facile. Basta dire volitto, volitto. Grazie.